Costituzione italiana emergono, speriamo di non dover dire emergevano, due eccezioni, due programmi televisivi di giornalismo investigativo, Report della Gabanelli e Anno Zero di Santoro. Accantonato ormai il problema macroscopico del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, sopravvivevano inoltre, solo sul piano formale, sulla carta, non nella realtà, alcune regole labili evanescenti sull'autonomia della RAI per quanto riguarda la nomina di direttori di telegiornali e reti. Come tutti sappiamo, come tutti dovremmo sapere, nel giro di due settimane il Presidente del Consiglio, in compagnia del suo Ministro dell'Economia, hanno scatenato un ultimo attacco pubblico frontale contro questi ultimi tre ostacoli al loro totale predominio sull'informazione televisiva e purtroppo non solo televisiva. Dato ora che sui nostri passaporti c'è scritto che siamo prima cittadini dell'Unione Europea e poi della Repubblica Italiana, insieme al senatore Giuseppe Di Lello e al giornalista Alessandro Cisirin, abbiamo fatto nuovamente ricorso al Consiglio d'Europa per denunziare con ampia documentazione allegata questi ultimi gravi colpi di manganello mediatico assestati nel nostro paese alla libertà di informazione. Erano stati Indro Montanelli, tre lustri or sono, e più recentemente lo scrittore Antonio Tabucchi, ad identificare in quella europea l'ultima spiaggia su cui erigere questa difesa della nostra libertà. Il Consiglio d'Europa e la sua Assemblea parlamentare bareranno, ce l'hanno assicurato, un'indagine conoscitiva sui gravi episodi da noi documentati, un monitoraggio su quanto sta accadendo in questo settore e un invito perentorio al Governo e al Parlamento italiani di osservare, aggiornandoli, i rilievi critici già avanzati negli anni scorsi dallo stesso Parlamento europeo e poi da Strasburgo. Oggi, a riprova di quanto da noi denunziato, abbiamo avuto il silenzio più assoluto dei mass media italiani su questo nostro esposto. A parte Microchip, articolo 21, il manifesto, nessun altro organo di informazione se ne è occupato. Perché mai? Perché forse il terremoto abruzzese avrebbe accresciuto a dismisura la popolarità del Premier e il suo prestigio tra i capi di governo del vecchio continente. Bene, i recenti incontri internazionali hanno dimostrato esattamente il contrario. In questi incontri Silvio Berlusconi è stato evitato